Come ottenere l'identità SPID? Per ottenere l'identità SPID hai due possibilità. La prima, ti registri su un servizio internet. Ci sono molti servizi che ti danno un'identità SPID. Questi servizi hanno procedure diverse tra loro. Puoi guardare alla pagina web qui sotto per conoscere queste procedure. La seconda, in tante farmacie di Bologna puoi chiedere di ottenere l'identità SPID. Trovi l'elenco nelle farmacie che ti danno questa possibilità qui sotto. In ogni caso, per avere l'identità SPID ti servono un documento italiano valido, per esempio carta di identità o passaporto o patente di guida, la tua tessera sanitaria, il tuo indirizzo email, il tuo numero di telefono cellulare.